il progetto Bolognina. Sapete che questo è un quartiere di cui si è sempre parlato e Acer sta dicendo da tempo che dovremo ripartire anche in questa fase post-Covid dalle periferie e dai quartieri, e vogliamo proprio ripartire dalla Bolognina con tre parole d'ordine che sono ricostruzione, quindi fare nuove case, ripristini e quindi mettere a posto le vecchie case che ci sono, e diciamo l'aspetto della legalità del contrasto al degrado. Partiamo dalla ricostruzione. Insomma, vi do la buona notizia che il cantiere di Via Serra è già al quarto piano di costruzione. Lì c'era un buco di fronte all'Hotel Guercino, era fermo da ben 25 anni. Siamo riusciti a far vincere, cioè regolarmente, in tutta regolarità, una gara d'appalto a un'azienda molto molto positiva da un punto di vista dei tempi. Sta procedendo a costruire un luogo che vedrà nel giro di 18 mesi, 24 mesi, 38 case popolari ERP in pieno centro di Bologna, con i relativi parcheggi e con una riqualificazione urbana che di fatto non ha precedenti, perché lì era un buco. Abbiamo anche in esame il lotto G del mercato ortofrutticolo per la partenza, in un'area che è un po' più indietro perché c'è ancora l'area non costruita, e anche lì una realizzazione di circa 32-36 appartamenti. Abbiamo poi in addirittura finale via Fioravanti 24, dove c'era l'XM24. Questo luogo avrà una consegna lavori fra un po' di giorni, entro aprile, e poi partiremo per la realizzazione del cantiere. Devo dire che oltre a questo abbiamo cercato, la seconda parola d'ordine è ripristini, quindi di rimettere a posto interi nuclei di appartamenti che erano messi male. Via Albani 2, 66 appartamenti che sono già stati assegnati, via Fioravanti 31 una ventina di appartamenti. Abbiamo demolito una vecchia lavanderia che era centro e fulcro di illegalità, di sporcizia, e poi stiamo partendo anche col Pinqua, che è un progetto del governo per la riqualificazione nelle periferie degli ambienti e delle case popolari, e possiamo annunciare che proprio in una struttura, perché oltre alla lavanderia era il simbolo, cioè perché c'è una corte in via Zampieri, c'è una corte dove c'erano gli ex fuochisti dell'Acer, e lì creeremo il museo dell'archivio storico dell'Acer, quindi un museo delle case popolari e operaia finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici. E questo è il ripristino e rimettere a posto. Il punto altro importante è che continuiamo a lavorare sulla legalità. Nel 2020 nella Bolognina non abbiamo avuto neanche un'occupazione abusiva. Nel 2021 siamo partiti con un'occupazione abbastanza pesante all'inizio di febbraio, ma il giorno 16 aprile, proprio l'altro giorno, abbiamo insieme alle forze dell'ordine sgombrato quell'alloggio che era stato occupato illegalmente in via Di Vincenzo. Siamo tornati a zero occupazioni nella Bolognina. Abbiamo lavorato sulle decadenze, 14 azioni di accertamento con la polizia locale per verificare cessione di alloggi a terzi, occupazioni senza titolo e presenze non autorizzate. Anche questo è un altro canale oltre l'occupazione abusiva che abbiamo cercato di combattere. Proprio stamattina sono andato per verificare la messa in sicurezza di alcuni spazi con delle reti anti-intrusione, perché abbiamo avuto denunce di situazioni di illegalità, e quindi abbiamo costruito delle condizioni attraverso queste reti di sicurezza e strumenti anti-intrusione per lavorare anche a questo contrasto del degrado. Nella stessa logica sono stati effettuati dall'inizio dell'anno ben 7 interventi per sgombro di masserizie e abbiamo rimosso ben 6 veicoli abbandonati. Sono 64 le lettere di diffide che sono partite a seguito di 22 sopralluoghi ispettivi del nostro ufficio disciplina, coordinato dal dottor Pianeggiani, ma tutto questo lo possiamo fare se c'è un grande progetto di educazione al vivere il quartiere. Proprio per questa ragione abbiamo lanciato anche il progetto social, che sono progetti progetti sociali che ACE sta cercando di realizzare. Uno è appunto il progetto Corti, con l'introduzione anche di un'impresa sociale per i bambini, per gli interventi educativi nelle corti della Bolognina. In sede di città metropolitana abbiamo lanciato Tavoli per l'Abitare, insieme all'Auser, che è un progetto di accompagnamento per l'abitare della popolazione anziana. Abbiamo attività con il tavolo dei cittadini Convivere Bolognina, messo in campo col quartiere Navile, col quale collaboriamo. Abbiamo anche un progetto di mediazione sociale col Comune di Bologna, con Opel Group e KDI, per gli interventi.